Jackin. Oh, ed eccoci qua finalmente alla prima vera puntata di Medium. Oh, oggi parliamo di quando un giocatore comincia a avvicinarsi a Netrunner per la prima volta. L'idea è quella di dare una breve introduzione a quello che può essere il gioco, dal punto di vista però non delle regole, si intende che le regole voi le sappiate già. L'idea è quella di dirvi magari quali sono le accortezze da utilizzare quando si costruisce un mazzo e quali sono le linee guida base per poter costruire un mazzo in maniera che funzioni già, diciamo, alla prima run. Se state ascoltando questo podcast, probabilmente è già da un po' di tempo che vi state interessando a Netrunner. Però se è la prima volta che create un mazzo, forse queste indicazioni potrebbero esservi utili. Allora, prima di tutto, un mazzo funziona se l'economia del mazzo è reale e supera quelli che possono essere i costi del mazzo. Quindi la prima cosa alla quale dobbiamo pensare è far sì che il runner, ma anche la corp, abbia la sufficiente quantità di denaro. Quindi l'idea è quella di partire costruendo il mazzo del runner guardando a quello che può essere la sua economia. In secondo luogo, chiaramente, l'idea è quella di capire da subito qual è il concept del mazzo, cioè in che modo il runner riesce a vincere, quali sono gli strumenti che possiede per poter riuscire ad entrare all'interno di R&D, all'interno di del quartier generale, quindi di HQ, quali sono gli strumenti che permetteranno al runner di riuscire a prendersi le agende. Potete puntare su avere dei programmi che vi faranno attraversare gli ice, potrete puntare su degli eventi che vi permetteranno di avere un vantaggio momentaneo nei confronti della corp, ma sufficiente per poter riuscire ad entrare dentro, oppure qualche strana combo che vi verrà in mente. Qualsiasi cosa possiate pensare, perseguitela in maniera molto diretta. Cosa intendo per questo? Intendo, se una carta all'interno del mazzo è fondamentale per la riuscita della vostra strategia, non lesinate, mettete sempre 3 pair, anche se può essere una carta che vi serve solamente in una copia. L'obiettivo è che voi abbiate la massima probabilità di poterla pescare. Al contrario, invece, le carte che metterete in quantità 2 e quantità 1 saranno quelle che vi serviranno solamente in una parte del gioco, cioè verso la metà del gioco, oppure proprio in casi eccezionali verso la fine del gioco. Mettete 2 pair se volete incontrare questa carta verso la metà del gioco, o 1 pair se questa carta non è assolutamente fondamentale per la buona riuscita del vostro mazzo, ma nel caso la peschiate verso la fine della partita potrebbe essere risolutiva. Detto questo, chiaramente una volta che abbiamo un'idea di quale carte andremo a giocare, la parte fondamentale della gestione del mazzo è l'economia. Molto spesso, siccome le carte brilluccicano e ci danno la sensazione di grande potenza, ci scordiamo del fatto che queste carte devono essere pagate. Dovrete assolutamente andare a mettere delle carte che vi danno la giusta economia, se non maggiore economia rispetto a quello che può essere la somma dei costi delle carte che invece andrete a giocare. Quindi 3 elementi fondamentali: sapere cosa il mazzo vuole fare, andare a scegliere le giuste quantità di carte in modo che non siano ridondanti nella vostra mano, ma assolutamente che riusciate a pescarle con la giusta frequenza e la giusta quantità. Infine, la cosa secondo me più importante, l'economia. Dovete andare formare una quantità di carte tali per cui l'economia del mazzo è leggermente maggiore rispetto alla somma delle carte che andrete a giocare in tutto il mazzo. Non smetterò mai di ripeterlo. Chiaramente poi sarà solamente il tempo a dirvi e le varie partite a dirvi se il vostro mazzo funziona oppure no. Queste comunque sono delle prime indicazioni che potranno farvi da guida. Chiudiamo qui per la rubrica Personal Workshop e passiamo alla carta del giorno. Oggi parliamo di due carte in realtà. Dietro il consiglio di Paolo andiamo a parlare principalmente di come rimuovere delle tag. Molto spesso avversari come MBN o Wayland cercano di affibbiarci delle tag, anche Jinteki ogni tanto con i suoi snare. E quindi l'idea è quella di giocare d'anticipo e avere carte nel proprio mazzo che ci tolgano le tag. Allora, sia Crash Space che costa 2, sia Networking che costa 0, ci danno la possibilità di rimuovere una tag. Lo fanno in maniera molto differente. Crash Space è una risorsa, quindi ci dà la possibilità di avere un permanente a tavola che dona 2 crediti ricorsivi ogni turno per riuscire a rimuovere delle tag. In più, se trasciamo Crash Space, possiamo prevenire 3 mid damage, il che è molto utile soprattutto contro Wayland quando siamo di fronte a Scorched Earth. Ora, rispetto a Networking, sono 2 carte, sì è vero che hanno entrambe il tema del rimuovere tag, però sono veramente radicalmente differenti. In primis perché Networking è un evento, costa 0 per rimuovere una tag, quindi dal punto di vista economico è vantaggioso, ti fa pagare 1 per potertela rimettere in mano, il che è molto interessante in virtù del fatto che non ti si abbassa la quantità di carte in mano e in più chiaramente lo puoi riutilizzare. A tutti gli effetti sono entrambi 2 effetti ricorsivi che noi abbiamo per poter rimuovere tag. Io personalmente, se dovessi andare a guardare quello che è lo strumento ideale per rimuovere tag, non userei né Crash Space né Networking, ma dovendo scegliere fra le due sicuramente andrei verso Crash Space. Crash Space mi dà la sicurezza di poterlo trashare nel caso in cui quella benedetta tag non sia stato in grado di rimuoverla, ad esempio perché è il turno dell'avversario, quindi mi è stata affibbiata nel turno dell'avversario, e quindi eventualmente ho questo trick in più da poter utilizzare per poter evitare di morire da Scorched Earth. Al contrario, Networking non mi dà quella sicurezza perché la posso giocare solamente durante il mio turno, quindi non è come, facendo riferimento ad un'altra carta che previene in questo caso di ricevere tag, come, non è come Decoy che mi impedisce di prendere la tag proprio in virtù del fatto che la posso trashare e quindi posso farlo anche nel turno dell'avversario. Networking mi serve semplicemente per rimuovere la tag durante il mio turno e in più mi chiede anche un click per farlo. Non sono affatto contento di questa carta, pur avendo un costo basso di influenza non credo la vedremo giocare in molti deck fuori da Andromeda o Gabriel. Secondo me, con l'avvento di anche un'ulteriore carta che è New Angeles, che è sempre una risorsa che mi permette di pagare del credito senza spendere click per evitare di prendere una tag, non vedremo Networking in gioco. Crash Space al contrario probabilmente continueremo a vederla in virtù del fatto che questa possibilità di avere 2 crediti ricorsivi per rimuovere tag è ancora interessante. E in più, secondo me la parte interessante di questa carta è la possibilità di poterla trashare per evitare di prendere mid damage, che unisce in 2, diciamo, una carta come Plascrit Carapace che ti previene il mid damage e in più ti dà questi 2 crediti ricorsivi. Chiaramente io fra Crash Space e Plascrit preferirei assolutamente Plascrit in virtù del fatto che è un hardware, però in generale possono essere giocate entrambi. Io l'ho giocata per un periodo ma non ne ho fatto un grandissimo utilizzo, è fuggita fuori dal mio mazzo molto presto, il mio mazzo Gabriel molto presto. Mi dispiace dovermi ripetere, ma per quanto riguarda il deck building, tutte e 3 le cose di cui ho parlato per il runner sono assolutamente fondamentali anche per la corp. Ricapitoliamole. In primis, sapere come vogliamo vincere. In questo caso le agende ci aiutano. Se stiamo utilizzando una determinata corp, facciamo l'esempio di Wayland, abbiamo due possibili obiettivi: o andare a vittoria attraverso l'avanzamento di agende e quindi riuscire ad arrivare a 7 punti agenda, oppure possiamo andare a vittoria distruggendo il runner che ci viene incontro, quindi portando la flatline. Possiamo farlo attraverso Scorched Earth, quindi dobbiamo prima taggarlo e poi riuscire a sparargli almeno un paio di Scorched Earth, forse anche tre se ha Plascrit Carapace in gioco. Oppure possiamo avanzare le agende avvalendoci del fatto che i nostri ice sono molto potenti e impenetrabili. Avere bene in mente quello che possono essere i nostri obiettivi cambierà radicalmente il nostro mazzo. Ad esempio, se sto giocando Wayland e il mio obiettivo è quello di fare flatline, probabilmente cercherò di ridurre la quantità di agende presenti nel mazzo, o perlomeno di agende interessanti per il runner. Quindi potrò certo chiaramente mettere delle agende che costano 1 e poi però le altre le metterò che a costo 3, in modo da metterne meno possibile. In questa maniera potrò mettere più carte nel mazzo che sinergizzano con la mia strategia di fare flatline, e riuscirò in questa maniera a massimizzare le mie probabilità di distruggere l'avversario. Al contrario, se invece la mia idea è quella di portare a segno le agende, con molta probabilità mi focalizzerò sugli ice, e cioè andrò a mettere tutti quegli ice che riuscirò a rezzare facilmente, che mi danno un costo di res e costo per essere rotti a mio favore, e quindi in questa maniera riuscirò a coprire i miei server e a riuscire a portare avanti le mie agende. Ora, questo chiaramente in termini molto generici e anche un po' banali. Il secondo punto chiaramente è la quantità di carte che dobbiamo mettere all'interno del nostro mazzo. In questo caso, mentre per il runner 45 è il numero di carte ideale da poter giocare, anzi se se ne potessero giocare meno come Chaos Theory sarebbe anche meglio, per quanto riguarda la corp siamo obbligati a mettere almeno 45 carte all'interno del mazzo, a parte la nuova identità di MBN. Questo ci obbliga automaticamente a mettere 20 punti agenda all'interno del mazzo, ma in realtà forse è interessante andare a utilizzare tutte 49 le carte che possiamo eventualmente mettere senza dover aumentare il numero di agende presenti all'interno del mazzo. Questo perché diluiamo la quantità di agende che si trovano nel mazzo, e in più chiaramente abbiamo 4 carte in più da poter giocare. Attenzione, questo abbassa un po' le probabilità di vedere una carta che abbiamo messo in quantità 3, di vederla nei primi turni, quindi fate anche questa considerazione qui: se mettere da 45 a 49 carte, quanto vi cambia in termini di probabilità di pescare poi le carte che avete messo 3 per. Arriviamo infine poi al tasto dolente della corp, cioè il denaro. Mentre il runner in un modo o nell'altro comunque riesce a generare sufficiente denaro nelle poche carte che ha a disposizione, le 45 carte che ha a disposizione, la corp deve assolutamente generare il denaro che gli serve per rezzare i propri ice, ma soprattutto per avanzare le carte che vuole avanzare, quindi asset e agende. Per la corp il denaro è ancora più fondamentale che per il runner, proprio in virtù del fatto che la corp senza denaro non è una minaccia, ovvero una corp a zero soldi non fa paura a nessuno, perché non può avanzare, perché non può girare i propri ice. Il denaro quindi non è solamente utile per fare quello che vogliamo fare, ma anche solo per minacciare di poter fare quello che vogliamo fare, perché mentre il runner paga tutto quello che mette a terra e quindi ha già pagato quello che dovrà utilizzare, noi virtualmente potremmo non pagare mai quegli ice che fanno tanta paura al runner, solo per il fatto che potremmo eventualmente pagarli. Quindi il denaro per la corp è assolutamente fondamentale. Dobbiamo sempre includere una quantità di carte di gran lunga superiore a quello che possono essere i costi che andiamo a sostenere nei confronti dei nostri ice. Detto questo, chiaramente stesse identiche considerazioni che abbiamo fatto per la corp, passiamo adesso alla carta del giorno, che ha a che vedere con i soldi. Now. Allora, la carta di oggi è Melange Mining Corp. Mi sembrava assolutamente obbligatorio parlare di una carta che desse soldi dopo tutto quello che ho detto prima riguardo dell'importanza di avere soldi per la Corp. Quindi Melange costa 1, è un asset, si trascia con 1. Al costo di 3 click vi dona 7 crediti. Non c'è bisogno che io vi stia a spiegare l'importanza di questa carta. Molti la sottovalutano, dicono: ah cavolo, devo perdere tutto il mio turno per avere 7 soldi. Innanzitutto, dal punto di vista della resa, è una delle migliori conversioni, click per singolo soldo. Quindi andiamo ad avere una conversione che è superiore a 2 soldi per click. Inoltre, l'idea è questa: io metto giù qualcosa di coperto e non te lo, il runner non sa di cosa si tratta, può venirtelo a runnare e quindi spendere soldi per rompere i tuoi ice e quindi arrivare e non trovare un'agenda ma trovare solamente un asset che, per quanto importante, potrebbe fare la differenza in termini di economia. Lui ha speso tanto per entrare, io ormai i miei ice li ho rezzati e quindi l'idea è quella di dare la possibilità al runner di entrare per trovare solamente un asset. In secondo luogo, quando poi la rezzo e uso i miei 3 click per fare soldi, il runner è assolutamente obbligato ad andare a venirmela a spaccare. Questo perché, chiaramente, come dicevo prima, per la Corp i soldi sono fondamentali non solamente per pagare quello di cui ha bisogno, ma soprattutto per minacciare di poter pagare gli ice che mette a terra. Quindi meno soldi ha la Corp meglio è, e il runner questo lo sa bene. Obbliga quindi il runner a spendere dei click per andare a trashare l'asset che hai appena messo, dando respiro alla Corp per potersi riorganizzare, soprattutto magari a seguito di qualche run andata a buon fine che ha alzato la posta in gioco, dando al runner magari qualche agenda. Quindi vi dico, provatela, troverete che è di un'efficacia eccezionale. In più, una volta che avete preso i vostri 7 crediti o i vostri 14 crediti, non fatevi scrupoli a trasciarla per poter installare magari nel server che avete protetto e che avete già rezzato un'agenda. Nel momento in cui vi ha dato già i primi 7 o i primi 14 crediti, ha fatto il suo lavoro. Se il runner è stato così incapace di venirvela a rompere, probabilmente con i vostri 14 crediti accumulati avete già la partita in mano. Per quanto riguarda la notizia del momento, direi di parlare di Creation and Control. Hanno recentemente mostrato alcune delle carte e quindi oggi parliamo di una carta in particolare che adoro. È un'identità, è una delle nuove identità degli Shaper, si chiama The Professor ed è una nuova identità degli Shaper. Allora, il professore è molto molto molto particolare, ha 0 link, quindi non partiamo bene, 45 carte obbligatorie all'interno del mazzo, uno solo di influenza, e quindi leggendo fino a qua dite ma che è, con un'abilità molto particolare, cioè la prima copia di qualsiasi programma in questo mazzo non conta nei confronti del tuo limite di influenza. Attenzione, non confondetevi con la prima copia di ogni carta di questo mazzo, la prima copia di ogni programma. Io inizialmente avevo pensato la prima copia di ogni carta e pensavo fosse super forte, poi l'ho un po' rivalutato dicendo ok, posso mettere molti programmi in quantità 1 per senza pagarne il costo di influenza, quindi senza dovermi preoccupare del costo di influenza, il che vuol dire che ho un po' tutto quello che può essere il meglio dei programmi prodotti da Shaper, Anarchs e Criminals senza dovermi stare a preoccupare, con l'unica clausola che devo andarmeli a pescare di volta in volta quelli che mi interessano. Perché? Perché avendoli in quantità 1 per non ho possibilità di avere un mazzo che sia affidabile dal punto di vista della probabilità che i programmi che ho messo escano. Ma effettivamente Creation and Control andrà a proporre nuovi modi per potersi andare a prendere dei programmi oltre al nostro amato test run. Quindi ecco, The Professor chiaramente mi piace non solo perché dà al giocatore la possibilità di inventarsi dei mazzi strabilianti con un casino di programmi particolari dentro, ma perché amo il concept, cioè il tema di questo professore che chiaramente ha accesso a tanti possibili programmi, non è probabilmente esperto in nessuno di questi, però è come fosse un accademico che si diletta nel poter bucare la rete e per testarne la sua efficacia, ed è probabilmente, non conosco la storia, ed è probabilmente caduto nella tentazione di andare a contrastare le corp. Mi ricorda un po' un certo Snowden che in questo periodo è braccato dalla polizia americana per aver rivelato il fatto che gli Stati Uniti d'America controllano i metadati della maggior parte delle persone straniere che utilizzano servizi in America. Ok, detto questo, passiamo alla parte del metagame. Sure. Bene, ora parliamo di un po' del metagame, cioè innanzitutto definiamo cos'è il metagame. Il metagame è l'analisi di come sta giocando la tua area di persone, quindi il tuo gruppo di persone, che tipologia di mazzi sta giocando e quali sono le azioni che la maggior parte dei giocatori utilizza per contrastare specificamente i mazzi della tua zona e del tuo territorio. Ora, fino a un po' di tempo fa la parola metagame aveva senso per quanto riguarda il singolo territorio, quindi la propria zona, in virtù del fatto che molti giocatori non avevano a che fare con altro che propri compagni di gioco nel proprio circolo, piuttosto che nel proprio negozio di carte. Il metagame attuale chiaramente ha a che vedere con l'intero mondo. Quali sono i mazzi che sono stati testati di più, cioè i mazzi che hanno... E quindi il metagame adesso è di fatto lo stato dell'arte del deck building per quanto riguarda un gioco in un determinato momento storico. Chiaramente ad ogni data pack il metagame shifta più o meno in maniera considerevole, includendo delle nuove carte che possono alterare in maniera l'attuale metagame. In Android Netrunner il metagame vuol dire quali sono le corporazioni e i runner che vengono giocati di più e quali sono le configurazioni che vengono giocate con queste corporazioni, quindi quali sono i mazzi che vengono giocati di più, ma soprattutto che vincono di più nei tornei di tutto il mondo. Attualmente chiaramente la corp più giocata è HB, Hasbiroid. Il runner più giocato è, credo, non sono sicurissimo, ma penso che sia Gabriel. Dico che non sono sicuro per il semplice fatto che attualmente Andromeda sta riscuotendo un ottimo successo. Si sta conformando un mazzo che si chiama Choking Andromeda, cioè Andromeda che ti strozza. E dove ti strozza? Ti strozza nel denaro, che ha l'obiettivo di riuscire ad avere una combinazione di carte molto forte il primo turno, ovvero Crypsis, Account Siphon, qualcosa che ti dia denaro. Basta, ti bastano queste tre combinazioni per poter di primo turno entrare dentro l'unico ice che è stazionato su Headquarter, ripulire la corp dal denaro e costantemente generare condizioni di negazione del denaro nei confronti della corp. Quindi Andromeda è tutta pensata per fare denaro velocemente, poi per il late game ci pensa Magnus Opus, e nel frattempo invece generare tutte azioni, tutti eventi che negano denaro alla corp, come azioni che ti facciano rezzare un ice e quindi fartelo pagare in un secondo momento, azioni come Account Siphon che ti neghino in maniera diretta il denaro a patto che si entri su HQ. Quindi ecco, l'attuale metagame per quanto riguarda Andromeda è questo. Per quanto riguarda le corp, HB è assolutamente il mazzo contro cui confrontarsi in virtù del fatto che gioca da solo, cioè l'esistenza di 6 agende da 2 a costo 3 e la carta Biotic Labor in combinazione poi con Sunset City Grid o con Trick of Light o entrambe, chiaramente dà la possibilità a una corp che ha sufficientemente denaro di poter riuscire a portare a punti una serie di agende senza nemmeno preoccuparsi di cosa sta facendo il runner. Chiaramente tutto questo a patto che si abbiano i soldi, ed è forse per questo che Andromeda con questa strategia di negazione del denaro, money denial, riesce molto bene nei confronti di HB. In più, attenzione, aggiungiamo un'ultima cosa. Il metagame attuale è molto indirizzato nei confronti del fare parecchie agende, neanche quando sai che probabilmente perderai. Fare molte agende è molto vantaggioso quando stai giocando in torneo, perché la presenza di agende ti dà la possibilità di avanzare di più. È un tiebreaker molto importante ai fini del piazzamento finale nel turno di Svizzera. Quindi HB a maggior ragione, proprio per come è organizzato il torneo di Netrunner, ha ancora più opportunità di poter far bene, in virtù del fatto che i tiebreaker sono legati alle agende che si è scorato anche quando non si è vinta la partita. Quindi diciamo che penso che ci dovremo confrontare con questo HB Fast Advance per ancora tanto tempo, e Andromeda sembra un'ottima contromisura nei confronti di questo HB Fast Advance, che chiaramente ha bisogno di tanti soldi per poter fare questa benedetta Fast Advance rezzando Sansan City Grid oppure Biotic Labor. È tutto per oggi, direi che ho parlato già abbastanza. È molto molto difficile parlare da soli senza avere un dialogo. Un altro podcast che sto facendo lo faccio in collaborazione con un'altra persona e rimane tutto molto molto più semplice. Mi sta mettendo molto alla prova. Forse risulterà un po' tecnico, forse risulterà un po' noioso perché è sempre la mia voce, ma vi assicuro che in futuro avrò qualche ospite che magari ravviverà un po' la situazione. Nel frattempo vi invito ancora a mandarmi feedback attraverso il sito netrunner.it e attraverso la relativa pagina Facebook, oppure contattandomi in maniera diretta attraverso i contatti del sito dal quale avete scaricato questa puntata, e in modo da poter sapere cosa sto facendo bene e cosa sto facendo male. Considerate che tutta l'intera puntata è stata registrata all'interno della mia macchina. Io faccio l'agente di commercio e quindi viaggio molto e ho anche molte pause, quindi molto spesso sentirete frusciare delle moto all'improvviso, oppure magari sentirete qualche clacson. Vi rassicuro sul fatto che non sto guidando mentre sto registrando la puntata, quindi questo vi rassicura sul fatto che troverete altre puntate e non mi schianterò contro un palo. Per oggi è tutto, e vi aspetto il venerdì sera al Circolo Evolution per fare una partita dal vivo, visto che è tutta un'altra sensazione dal vivo rispetto che con Octagon. Ciao ragazzi, alla prossima. I've seen things you people wouldn't believe. Jack out.